Aiwan ripartì verso casa quella sera stessa col treno notturno. Rientrando la mattina dopo, trovò Tamà che gli era venuta incontro e lo salutava con calde esclamazioni di benvenuto. Insieme percorsero il vialetto del giardino. Aiwan pensò con rinnovato disgusto alla moglie di Aiko, ma ora non gli sfuggiva come Tamà, dal canto suo, avesse schiettissime fattezze giapponesi. Nei giorni che parevano ormai così lontani del suo zitellaggio, egli, pensando a lei, non l'aveva mai vista sotto il suo aspetto particolarmente giapponese. Era una giovane ragazza e basta. Vesti sempre alla giapponese con kimono e geta, gli scappò detto. Lei ebbe un morbido riso di scusa. Ti dispiace? Sono così comodi. Egli non poteva confessare che sì, che gli dispiaceva. Sarebbe stata la prima volta, dato che fino a quel giorno non vi aveva mai fatto particolare attenzione. Certo, il kimono chiaro a fiori d'arancio si intonava benissimo con la pelle color albicocca e con gli occhi scuri di Tamà. Quando furono alla porta d'ingresso, lei gli si inginocchiò davanti come se fosse stata la serva, gli slacciò le scarpe, gliele levò e gli infilò i piedi nelle larghe pantofole di feltro, sempre pronte. Spesso egli aveva protestato contro quel servizio, ma lei aveva finito col persuaderlo che si trattava semplicemente di una maniera di esprimergli il suo amore. Non lo faccio per nessun altro, insisteva. Egli aveva finito con l'abituarci, sì, e invero era diventata una cosa intima e dolce vederla ai suoi piedi con la bruna testa china. Quel giorno pensò, però, nessun'altra donna farebbe mai così. E in quel momento comparve di corsa a Giro. Aiwan gli domandò dove era il fratellino Ganjiro. Dorme, rispose Giro. Tama aveva continuato a fare di Giro un autentico giapponese nella foggia del vestire, nei modi e persino nella pettinatura. Aiwan disse bruscamente: I piedi di Giro cominciano a rientrare per l'uso delle geta. Provvedilo di scarpe di cuoio, Tama. Prima che vada a scuola? Domandò sorpresa lei. Costano care le scarpe. Non mi importa, rispose Aiwan. Provvedigliele. Ella non rispose, ma egli s'accorse dal modo come reprimeva l'esclamazione di gioia del figliuolo che non era contenta. In quell'attimo vide la domestica che attraversava la stanza diretta in cucina con Ganjiro sul dorso addormentato. Aiwan sapeva benissimo che Tama avrebbe considerato la sua uscita più che mai irragionevole, ma disse ugualmente: E perché mai appendi così il bambino alla schiena della ragazza quando già sa camminare? Crescerà con le gambe corte e storte come Bungee. A questa battuta Tamà si indignò. Aiwan, ti prego, non in presenza di Giro. Quello è un buon sistema per i bambini che così dormono al calduccio. La temperatura costante del corpo della donna che così li regge impedisce loro di prendere freddo. Mettilo a letto, non voglio che lo si regga così con cinghie, insistette lui. Le lesse negli occhi un muto rimprovero, ma poi, dopo un sospiro, la vide che sorrideva. Capisco, sei molto stanco. Disse con dolcezza. Un'intera notte in treno. Giro, vattene finché ti chiami. Non sono stanco, ribatté Aiwan, ma non disse altro. Forse era davvero irragionevole. Certo, si stupì dell'idea che oggi gli avrebbe fatto quasi piacere di litigare con Tamà. Ma non era possibile. Lei non gli avrebbe risposto, ecco tutto. Tamà si muoveva per la casa con tranquillità per placarlo e a un certo punto sparì per dargli il tempo di riprendersi. Ora gli venne da pensare che ella si ritirava per ricordarsi che cosa doveva fare quando un uomo, suo marito, era irritabile. In passato, quando lo aveva giudicato in collera e la ricompariva invariabilmente con un fiore o un dolce o una teiera colma di tè appena preparato, per testimoniargli la sua speciale attenzione. Egli si era sempre vergognato dei suoi rari momenti di cattivo umore, ma oggi lo irritò proprio l'apparente sottomissione di lei, che gli perdonava tutto quello che faceva e che tuttavia, su questo non si illudeva, non cedeva in nulla. Consumò il suo pasto in silenzio, pieno di quei pensieri e odiandosi per essi. In realtà Tamà non era mutata. Ella era quella che era sempre stata, una fresca, ingenua, felice creatura, un incontro di puerilità e di complicazioni, di vecchio e di nuovo. Il suo solo difetto consisteva nel compiere sempre con diligenza quello che le avevano insegnato. Ancora una volta, improvvisamente, Aiwan si rammentò che ogni giapponese faceva quello che era stato istruito a fare. Ma di chi era l'ultima parola? Che cosa nutriva lo spirito del popolo? L'imperatore? Aiwan aveva spesso visto le fotografie della coppia imperiale. Erano nei sacri altari di ogni scuola e di ogni pubblico edificio, due creature ieratiche dall'aspetto di bambole. Anche l'imperatore e l'imperatrice facevano come era stato insegnato loro di fare. Ad Aiwan parve ora che tutta la nazione fosse stampata su di un unico modello, e di quel modello sarebbero stati anche i suoi due figli. S'alzò di scatto, doveva andare in ufficio, ma non riuscì subito a trovare il cappello e Tamà era uscita dalla stanza un momento prima. «Dov'è il mio cappello?» domandò alla domestica che compariva col tè. Non portava più sul dorso il bambino. Alla sua domanda assunse un'espressione spaventata, come uno che non sappia e tema che cosa sta per capitargli. «Ah!» sospirò affannata e cominciò a correre avanti e indietro cercando il cappello negli angoli più assurdi. Aiwan si impazientì. «Il mio cappello, Tamà!» gridò. «Dove può essere mai?» Dietro di lei comparve sgambettando Gangiro col cappello cercato sul capo. Tamà glielo strappò. «Cattivo ragazzo!» esclamò. «Prendere così il buon cappello di tuo padre!» «Ah, lascialo stare!» ordinò Aiwan mettendosi in testa il cappello. «Sono contento se il ragazzo mostra di essere indipendente!» Tamà non rispose. Consegnò alla domestica il ragazzo strillante e seguì Aiwan con labbra sorridenti fino all'uscio. Aiwan pensò, le hanno insegnato a salutare suo marito quando esce con un sorriso sulle labbra. Si odiava. Addio, Tamà, disse con tono un po' più gentile. Il suo odio per sé crebbe quando le vide negli occhi luminosi un'espressione di sollievo. Forse tornerò più tardi, soggiunse. Certo, convenne lei. E rimase a guardarlo, sempre sorridente, finché scomparve. Che cosa accadeva dopo che gli se ne andava? Prima di allora non gli era mai accaduto di porsi la domanda. Tamà si toglieva forse il sorriso dal volto per rimetterselo quando gli tornava? Con ogni probabilità Gangiro era di nuovo legato al dorso della fantesca. Per la prima volta pensò che egli non sapeva veramente nulla di quel che accadeva in casa sua. Quella notte rimase lungamente sveglio, con la testa indolorita e agitata da mille pensieri, mentre Tamà già gli dormiva a fianco. Per un'ora ella gliel'aveva massaggiata con ferma delicatezza e le sue dita parevano quasi non toccare la pelle, e tuttavia egli ne sentiva ancora i polpastrelli rianimargli i nervi. «Sai far tutto tu», aveva detto dopo una lunga pausa. «Stai meglio?» aveva domandato lei. «Sì». Dopo un poco il dolore riprese più forte, ma egli non disse nulla. Tamà aveva fatto quello che aveva potuto. Non era sua colpa se il dolore era più forte dei suoi interventi. Gli venne da pensare che più che dai nervi esso traeva origine dalle profondità della sua anima. La sua anima. Non ci aveva pensato da un pezzo. Tamà aveva dato piena comodità e agio al suo corpo. Da lungo tempo egli si era abituato ad accettare l'assistenza e le premure di lei, persino quella sera prima di adagiare il collo nel concavo cuscino di legno. Tamà si era accertata con le solite maniere delicate delle sue condizioni. Gli occorreva ancora qualcosa? Era stanco? Molto. Non chiedo che di dormire. Allora ella gli aveva accarezzato le gote coi palmi delle mani e si era sdraiata accanto a lui con mosse tacite e quasi inavvertite. Aveva o non aveva, continuò a domandarsi Aiwan, una propria volontà. Da ragazza certo l'aveva avuta, e d'altronde che cosa era quella profonda, ferma persistenza in tutti i suoi gesti e atteggiamenti se non la saldezza della sua volontà? Pensandoci scopriva tuttavia che non tanto si trattava della volontà individuale di Tamà quanto di qualche cosa d'altro, non di tradizione. La sua educazione scolastica l'aveva liberata. No, si trattava d'altro, di una cosa che Aiwan aveva avvertita nei suoceri, in Bungì, in Shio. In Akyo aveva determinato la sua morte, rendendolo semplice quanto sumine la volontà di morire. Si trattava di una specie istintiva di solidarietà che Aiwan stentava a capire, non avendola mai notata prima di venire a stabilirsi in Giappone. Certo, quell'istinto non c'era nella sua famiglia e nemmeno nel suo popolo. Persino nel gruppo giovanile capitanato da Enlan, la solidarietà era fondata su convinzioni intellettuali riconosciute, più che su istinti naturali. Anche i suoi figli partecipavano di quegli istinti. Evocò la figura di Giro, della sua faccina soda e rotonda. Impossibile saperlo. Ma come pensare che di quello spirito il bambino non partecipasse? Tamako, il suo sangue, gli aveva dato anche quello che nel suo essere c'era di non perituro e non distruttibile. Il che, in altri termini, voleva dire questo: quello che nei suoi figli c'era di più saldo, di più imperituro, era, come Tamà, giapponese. Improvvisamente si sentì così distante da Tamà come se non l'avesse mai veduta, e la dormiva ora, come sempre, in perfetto silenzio, non ne percepiva neppure il respiro. Nel sonno lui si voltava e si agitava in tutti i sensi, il corpo di Tamà invece non si muoveva mai. Alla mattina, alzandosi, ella non aveva fuori di posto neppure un capello. Anche nel sonno le avevano insegnato a controllarsi. Tutti nel Giappone si controllavano. Da uno strano, immobile centro dell'essere si irradiava un completo controllo su tutto l'insieme. Nulla poteva spezzarlo. Aiwan ricordò il terremoto. Nessuno aveva paura e tuttavia anche un occhio di gran lunga meno sensibile del suo avrebbe avvertito la loro intensa, intima sofferenza. Bungi, tuttavia, aveva perduto il controllo di se stesso. Questo qualche volta capitava e allora l'individuo tornava bestia. Anche Bungi, il migliore di tutti loro. Bungi, che tuttora era il migliore perché odiava e temeva il proprio misfatto e lo nascondeva anche a se stesso, cosicché perfino di fronte al suo io non poteva più essere quello di un tempo. E Tamà, se avesse perduto il dominio di sé? Al tenue lume della lampada notturna guardò il placido volto dormiente. Ganjiro, così come è costume di tutti i bambini giapponesi, le dormiva all'altro fianco. Aiwan ricordò l'espressione scandalizzata di Tamà quando le aveva domandato: «Perché non lo fai dormire con la domestica?» «Ma come può una domestica accorgersi se qualche cosa gli manca?» aveva esclamato lei. «Lei, che era così sensibile, che avvertiva nel suo stesso sangue anche i minimi mutamenti che avvenivano nel bambino, così da essere in grado di presentirne e di curarne in anticipo i mali». Egli si costrinse all'immobilità, per quanto vibranti fossero i nervi, ma la quiete di Tamà lo obbligò a dominarsi. La sua stessa profondità moltiplicava infatti i rumori e le mosse anche più impercettibili. Finalmente gli parve di sentire che da lei emanava qualcosa, qualcosa soltanto percettibile nella più assoluta quiete. La sua irrequietezza si placò, si sentì quasi in pace e dopo un poco il sonno gli velò la mente come un confortevole calore. Nel suo cervello l'agitazione andò calmandosi, non restarono svegli che gli intimi centri, perché avrebbe di nuovo dovuto sconvolgere la propria vita. Ne aveva costruito l'edificio con cura, da solo. Solo era stato cacciato dal suo paese, solo aveva trovato Tamai, con lei aveva costruito il focolare domestico. Con tutto il suo essere s'aggrappò a quel bene acquisito da solo. Qualunque cosa accadesse altrove, questo doveva essere conservato. Nessuno avrebbe più dovuto portargli via il suo. Allungò la mano e sfiorò il volto di Tamà. «Tamà!» mormorò. Voleva sentire la sua voce. Ella si svegliò di colpo, come sempre vigile e pronta. Che c'è? Niente, solo parlami, la supplicò. Da tanto tempo sono sveglio, assorto in troppi pensieri. Lei lo abbracciò. Oh, non pensare troppo, disse. Restarono tacitamente abbracciati. Egli, scacciando ogni pensiero, mormorava la sua pena nel dolce e consolatore calore del seno di Tamà. Qualunque cosa accadesse altrove, non era affar suo occuparsene. E così tornò la pace. Seguì un mese di inusitate frescure, di luminoso sole, e ogni giorno, tornando a Iwan dal lavoro, Tamà e la domestica lo incontravano ai piedi della piccola collina coi bambini. Salivano tutti su di un autobus e andavano alla spiaggia, oppure se ce n'era qualcuno vicino noleggiavano un rickshaw e scarrozzavano. Quando avevano giocato sulla riva del mare fino a esserne stanchi, comperavano la cena in qualche piccolo ristorante o da un venditore ambulante e la consumavano all'aperto. Ganjiro, quando si addormentava, Era deposto in una buca tiepida nella sabbia sotto la sorveglianza della domestica. E Sei Wan, rientrando al buio, si accorgeva che ella portava ancora il piccino legato alla schiena, non faceva più obiezioni, perché sapeva che la poveraccia sperava di non essere notata. Il che, in altri termini, voleva dire che Tamà cercava di evitare i bisticci con lui e lui, almeno tacendo, la secondava. Spesso, più spesso che in passato, andavano tutti in casa Muraki e cenavano nel giardino. Il vecchio Muraki ci teneva. È per Giro, diceva Tama con orgoglio. Vuole sempre Giro con sé. Mia madre dice che giudica il nostro piccino di gran lunga più sveglio dei due ragazzi di Shio. Giro era certo un bambino di eccezionale bellezza. Era più alto di tutti gli altri piccini della sua età. Teneva la testa eretta e non aveva ereditato le tozze manotte di piedi altrettanto tozzi di Tamà, ma i lunghi e persino troppo delicati piedi di Aiwan. E poi Giro era pieno di spirito e di humor. Al vecchio Muraki non pareva vero di prenderlo per mano e di portarlo solo a spasso per il giardino dopo il pranzo. Aiwan seguiva sempre con gli occhi il fragile vecchio nella morbida veste grigia e il vivacissimo fanciullo che gli saltellava al fianco. Quando il vecchio Muraki rientrava, bisognava vederlo com'era raggiante. Non aspettava quasi che Giro scappasse via per dire: mai visto un ragazzo così, Aiwan. È la prova vivente di quanto vado dicendo da un pezzo. Giapponesi e cinesi insieme possono formare il più gran paese del mondo. Dobbiamo unirci. E usciva nella sua vecchia risata asciutta e tutti ridevano con lui. Aiwan dimenticava i propri cruci per non vivere che del sentimento d'orgoglio che suscitava in lui Giro. Sì, era un tempo felice. Persino Bungi ora trattava Aiwan con più gentilezza che la scorsa estate. Sua moglie Setsu era la donna che andava per lui, si vedeva che gli tornavano gli umori giocosi di un tempo. Ti ricordi, Aiwan? Ho sempre detto che avrei sposato una ragazza brutta io. Raccomando di sposare ragazze brutte, ciò mi fa pensare che dopo tutto io non sono da buttar via. E mantiene mia moglie in una condizione di umiltà. Setsu, perfetta moglie giapponese. Setsu arrossiva e rideva, felice a tutto quanto diceva Bungi, non replicando mai. Ma tutti cominciavano ad amarla, quella Setsu che aveva imparato a leggere solo con gran difficoltà e non aveva più alta aspirazione che far felici suo marito e i suoi genitori. Quasi subito dopo il matrimonio, la sua persona si gonfiò di un'incipiente maternità e così Setsu iniziò il lungo cammino della sua vita coniugale, quale madre di molti bambini. Tuttavia, quando Aiwan rievocava quel periodo di pace, si meravigliava di aver sognato che potesse durare. Esso, infatti, finì in un attimo. Era il 70° anniversario del vecchio Muraki, una data perciò particolarmente solenne. Shio era venuto da Yokohama con la moglie e i due figli e a mezzogiorno c'era stata una gran festa all'albergo. I mercanti della città si erano adunati per rendere omaggio al loro collega e per offrirgli in dono un piatto d'argento con tutte le loro firme, montato su legno e velluto. Il vecchio si compiacque del dono e delle feste, ma era anche molto stanco. Usciva di rado ormai, per la fatica di alzarsi e di inchinarsi infinite volte. E anche per aver dovuto pronunciare un indirizzo di ringraziamento. Perciò quel pomeriggio in casa sua non c'erano ospiti, e poiché faceva un gran caldo, come se si preparasse un temporale, Bungi aveva ordinato alla servitù di aprire tutte le tramezze, anche quelle che facevano da muri esterni della casa, sicché la grande stanza centrale era spalancata da tutti i lati, salvo uno, sul giardino, inondato da un morbido sole. I bambini giocavano in gruppo sulle rive del ruscello vicino alla casa, sorvegliati tranquillamente dai genitori. Il vecchio Muraki fumava la pipa, Shio carezzava seduto sulla sua sedia il suo pezzo di giada e la signora Muraki, immobile e ginocchioni, come era suo costume stare quando non c'era nulla di particolare da fare, seguiva anche lei con gli occhi la scena. Solo Bungi entrava ed usciva irrequieto, ora sorvegliando la servitù, ora lanciando un grido a un bambino. Aiwan, seduto accanto a Tamà, taceva anche lui, godendosi l'ora quieta e riflettendo sulla vita del vecchio suocero che quel giorno, per così dire, gli era stata esibita davanti agli occhi. Una buona, onorevole vita trascorsa in immutabile fedeltà alle tradizioni. Guardava il vecchio e si domandava se ora a 70 anni era davvero soddisfatto di quello che aveva fatto e avuto. Difficile credere che suo suocero avesse mai desiderato altro. Fu esattamente in quel momento che Gangiro scivolò e cadde nell'acqua con un gran grido e che nella via cominciò il frastuono. Aiwan si ricordò che nella confusione della corsa per estrarre Gangiro dall'acqua parve che tutto quel fracasso fosse fatto dal solo bambino, ma un secondo dopo il pianto di Gangiro si perdette fra le grida che echeggiavano di fuori. Bungee si sgolava a domandare: «Che cosa accade? Che cosa accade?» Mentre Shio faceva eco con voce stridula: «Terremoto! Qualcuno ha sentito qualcosa?» Tama era uscita di corsa verso Aiwan e i bambini e tutti ristettero un momento in gruppo in attesa di sentir muovere il terreno sotto i loro piedi, ma la terra non tremò. Intorno a loro, nel giardino, tutto restò qual era. L'acqua continuò a scorrere sulle pietre, il sole occiduo proiettava i lunghi suoi raggi fra gli alberi sul terreno muschioso. Quand'ecco comparire di corsa il vecchio giardiniere agitando un giornale ancora umido d'inchiostro. Bungee glielo strappò di mano e tutti gli fecero ressa intorno, e un minuto dopo tutti sapevano quant'era accaduto. 300 giapponesi, uomini, donne e bambini erano stati massacrati dai soldati cinesi in una cittadina nei pressi di Pechino per vendetta, così proclamavano i grandi titoli, per barbara vendetta dell'occupazione giapponese della vecchia capitale. Nessuno parlò, nessuno guardò Aiwan, tutti rimasero come impietriti. Persino i bambini, afferrando il senso del disastro, tacevano. Nel silenzio, il frastuono proveniente dalla via parve ancora maggiore. Un telefono cominciò a trillare in casa e un istante dopo comparve una domestica. Si avvicinò a Bungee, gli fece la solita riverenza e gli comunicò che qualcuno lo chiamava dal comando del generale Sekki. Bungee si volse senza una parola, seguito da Setsu, e poi s'udirono singhiozzi soffocati. Era la servetta di Tama che piangeva col volto nascosto dietro la manica. «Che ti piglia? Mia!» la investì con durezza Tama. La poveraccia balbettò: mio fratello deve essere morto, anche lui aveva un piccolo negozio di macellaio in Cina, proprio nella città dove è avvenuto il massacro». Singhiozzava forte. E Gangiro, vedendola piangere, strillò anche lui. Aiwan lo prese in braccio, ma era troppo scosso per consolarlo. Che cosa significava l'accaduto? Aveva raccolto il giornale, abbandonato da Bungee, e anche lui aveva letto. Una colonia di gente pacifica e inerme era stata massacrata da cinesi istruiti e pagati dai giapponesi per mantenere l'ordine. «Dammi il bambino», disse Tama. «Piange ancora!» Glielo strappò quasi dalle braccia con gesto risoluto. Bungee ricomparve, grave e freddo in volto. Non guardò Aiwan. Si avvicinò a suo padre, gli si inchinò davanti e gli annunciò un'improvvisa chiamata alle armi. Poi si voltò e rientrò in casa. Nessuno parlò. Se il vecchio Muraki o Shio avessero aperto bocca, allora, pensò Aiwan, gli sarebbe stato agevole esprimere l'ovvio pensiero. Certo, c'è un perché. Noi cinesi non ammazziamo la gente per niente. Noi cinesi. Pochi istanti prima si era sentito così intimamente legato a quella famiglia, ma ora quel silenzio. Andiamo a casa, disse Tamà con voce mutata. Si mossero tutti, si scambiarono gli inchini di commiato, solo gli inchini di commiato. Non una parola di più. Sicché, come avrebbe potuto Aiwan cominciare noi cinesi? Non gli restò che seguire Tama e partirsene con la servetta lacrimante diretto a casa per le vie già immerse nel crepuscolo. Tutto era tornato tranquillo. La gente ora al corrente dell'accaduto camminava per le vie discorrendone con facce scure e voci basse, di quando in quando s'alzavano ventate di voci alla fermata di qualche autobus. Era gente proveniente dai parchi e dalle spiagge che sfollava il veicolo senza ancora sapere che cosa era successo. Nemmeno Aiwan parlò. Sentiva fissi su di lui gli sguardi della gente che pareva sceglierlo dal gruppo, notandolo in modo particolare, ma camminava allo stesso compasso deciso, come se nulla vedesse. Gli bollivano nel petto misti sentimenti d'ira e di vergogna con predominanza degli ultimi. Avrebbe voluto gridare alla folla: «Perché fingete di essere così oltraggiati, così innocenti? Vi dico che noi non ammazziamo la gente per gioco». Ma non poteva investire così la gente per via, la gente che tirava dritto e che guardava altrove quando lui la guardava. Così camminava tacito, riempiendo il silenzio, avresti detto, coi propri irati pensieri, ricordando tutti i torti di cui era colpevole il Giappone. E Lan li conosceva bene, era lui che gli aveva detto e ripetuto le mille volte quanto ci fosse da diffidare. A Taiwan, quei torti addossati ai giapponesi non erano parsi credibili neppure allora. Certo, perché a differenza di Lan non aveva mai risieduto nel nord dove la pressione giapponese si era manifestata più forte, e anche perché nella casa paterna non ne aveva mai sentito parlare, ma ora riudiva la voce febbrile di Lan che ripeteva: «Ci vogliono inghiottire come hanno inghiottito la Corea. Un giorno o l'altro dovremo affrontarli». Le 21 domande, con quale collera Lan ne parlava. Ed erano i giapponesi, ripeteva, che portavano l'oppio e lo vendevano a poco prezzo così da permettere al popolo di comperarne. Di quando in quando Enlan si dava attorno per provocare boicottaggi antigiapponesi con saccheggi di botteghe, grandi falò di merci nipponiche nelle vie di Shanghai. Qualche volta lo stesso Enlan era quasi uscito fuori di sé dalla collera per la viltà di piccoli bottegai, i quali, strappate le etichette dalle merci giapponesi che avevano in magazzino, giuravano che erano cinesi. Tuttavia, non si sapeva come, tutti i boicottaggi finirono travolti dalla grande ondata della rivoluzione, ma anche allora, Aiwan se lo ricordava bene adesso, e Lan, mentre con lui saliva le scale che conducevano ad un'aula scolastica, ebbe a dirgli un giorno: «Presto o tardi, dopo la rivoluzione, dovremo pure liberarci da questi giapponesi». Aiwan voleva ora parlarne con Tama, doveva spiegarle, ragionare con lei, ma Tama aveva troppo da fare. Mia, diceva alla domestica, vai subito dai tuoi, in casa farò tutto io, domani non venire. Stai coi tuoi genitori un giorno o due e consolali. La servetta se ne andò piangente di gratitudine e Tamà, senza perdere tempo, s'affrettò a spogliare i bambini, a far loro il bagno e da mangiare e a metterli a letto. Aiwan si offrì di aiutarla, ma lei lo respinse con dolcezza. No, Aiwan, vai nel tuo studio e riposati, posso far tutto da me facilmente. Seduto al buio nel suo studio, egli l'udiva muoversi per casa. La luce, quando voleva pensare, quando come in quel momento voleva tracciare davanti a sé, alla mente, tutto l'elenco dei torti giapponesi nei riguardi del suo paese, non serviva a nulla. Quella notte, quando Tamà gli avrebbe detto la casa sarebbe stata silenziosa e tranquilla poiché tutti sarebbero stati a letto, Aiwan, dimmi, com'è potuta accadere una cosa simile? Ed egli le avrebbe risposto, ma Tamà non disse nulla. Entrò, dopo un poco, premette il bottone vicino alla porta e accese bruscamente la lampada. Aiwan, perché te ne stai così al buio? Vieni, la cena è pronta. Lo prese dolcemente per mano e lo condusse via. Poi, durante tutto il pasto, parlò rapida e dolce non di quanto era accaduto laggiù, ma soltanto di suo padre e degli infantili ricordi che aveva di lui. Suo padre era buono e saggio. Anche quando voleva che tu sposassi il generale Seki? Domandò Aiwan, subito pentendosi della sua domanda. Tamà, infatti, rispose con prontezza, anche allora, perché era persuaso di far cosa giusta. I loro occhi si incontrarono e egli pensò: a che cosa serve parlare se i giapponesi rendono giuste le cose che non lo sono? Inutile, inutile, si disse, e anche lui tacque.